che Gesù Cristo esortasse i suoi seguaci e il popolo tutto a pagare di buona vena le tasse è una estrapolazione abbastanza audace di un famoso passo di Matteo 21-22, in cui il maestro, interrogato da certi farisei ed erodiani sull'opportunità appunto di farlo, prende una moneta, osserva che reca l'effigie di Cesare, come a dire l'imperatore in carica, che doveva essere, mi sembra, Tiberio, e ne conclude, come noto, che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. L'estrapolazione, vi dicevo, è audace, perché Gesù in definitiva sulle tasse non si pronuncia, visto che ha capito benissimo che la domanda era capziosa, che i suoi interlocutori sono pronti in caso di risposta affermativa a bollarlo come servito agli odiati romani o in caso contrario a denunciarlo come pericoloso eversore. Per cui, riconosciuta la loro malizia, dice il testo, se la cava con una frase di bell'effetto che può dire tutto o niente, ma che in sostanza si riduce a una variante del ben noto "perché lo chiedete a me, io non c'entro". Della sua tecnica, in effetti, devono aver fatto tesoro quei dirigenti della Margherita usi a spiegare che il rifiuto del riconoscimento giuridico dell'unione di fatto non significa disconoscimento dei diritti degli individui che le compongono. Anche a loro, s'addice l'epiteto che il Salvatore lanciò in quell'occasione ai suoi interlocutori, razza di ipocriti. È interessante notare, comunque, come la lezione evangelica corregga esplicitamente il punto di vista espresso da San Paolo nella lettera ai Romani 13:1-7, è un testo che probabilmente precede di qualche anno quello di Matteo. Lì il problema dei rapporti tra i fedeli e l'autorità, anche sul piano fiscale, si pone in termini tutt'altro che ambigui, a partire dall'osservazione per cui ogni persona deve essere sottoposta alle podestà superiori, perciò che non vi è podestà se non da Dio, e le podestà che sono da Dio ordinate. Per cui conviene di necessità essergli soggetto, e bisogna per questa cagione pagargli i tributi, perciò che essi sono ministri di Dio. Così almeno nella traduzione cinquecentesca del Diodati, uno studioso che era Bibbia non era solito far dire quello che di volta in volta gli conveniva. Paolo e Matteo in realtà esprimono due punti di vista confliggenti, il cui intrecciarsi si può riconoscere in tutto il Nuovo Testamento e sul quale la dottrina, soprattutto di scuola protestante, si è arrovellata non poco. E l'argomento esula dal mio personale campo di competenza. Ma è chiaro comunque che il contrasto sempre ricorrente tra le esigenze, diciamo pure di base, e un atteggiamento di stretta coordinazione con le istanze proprie dell'autorità politica accompagna la storia del cristianesimo sin da quei primi lontanissimi anni. I governanti naturalmente tenderanno a essere piuttosto dalla parte di San Paolo. Così il presidente Prodi, partecipando presso l'Istituto di Scienze Religiose di Bologna a un convegno dedicato alla figura di Don Giuseppe Rossetti, ne leggo su Repubblica del 12 ultimo scorso, non ha saputo resistere alla tentazione di citare un passaggio in cui il compianto fondatore della sinistra democristiana, partendo appunto dall'epistola ai Romani, spiega come lo Stato, che impone gravi sacrifici per una reformazione del corpo sociale e una maggiore qualità tra gli uomini, vede finalmente profilarsi i liturgici di Dio. Espressione oscura per chi non sa che i ministri di Dio del Diodati, che sono ministri dei anche nella Vulgata, sono stati visti con un minimo sforzo di tensione semantica come veri e propri operatori liturgici, il che conferisce all'invito a pagare il tributo un'autorevolezza e una pregnanza tutte peculiari. È una pagina, ha concluso Prodi, che mi è sempre presente, mi accompagna in questo tempo della mia vita, in special modo in questi giorni e in queste ore. Una rivendicazione dunque esplicita e senza reticenze delle virtù salvifiche dell'imposizione fiscale, cui Prodi, che non dimentica di essere sotto accusa da parte dell'opposizione in quanto tassatore insaziabile, si è lasciato andare nella giuliva consapevolezza che i suoi avversari potranno dire le cose più sgradevoli su Visco, ma difficilmente se la prenderanno con San Paolo. e che attraverso San Paolo naturalmente si possano far passare alla faccia del liberismo e del pensiero neocon concetti quali la reformatio del corpo sociale e le qualità tra gli uomini, che comunque espressi in latino sembrano meno pericolosi che in volgare. Noi a essere proprio sinceri ci sentiamo più vicini a Matteo, non tanto per l'incoercibile di desiderio di dare a Cesare quel che è di Cesare, senza neanche la garanzia che Cesare ci restituisca quello che è nostro, ma perché ci inquieta parecchio quell'affermazione sull'origine divina delle potestà e sul relativo obbligo di obbedirgli senza discutere. San Paolo aveva i suoi buoni motivi per tenersi buoni dominatori e assicurar loro che mai e poi mai i cristiani avrebbero creato problemi. Vedeva lontano lui e forse presagiva il futuro costantiniano dell'organizzazione che stava fondando, ma erano appunto motivi suoi. A noi, dall'illuminismo in poi, il problema dell'origine del potere ce l'hanno spiegato in termini leggermente diversi. Per cui, forse, sarebbe meglio che Prodi, che è a capo di una maggioranza formalmente laica e dovrebbe ricordarsene anche quando va a parlare all'Istituto di Scienze Religiose, lasci perdere l'identificazione dei funzionari delle finanze con gli operatori liturgici e cerchi piuttosto, come usa in tutti i paesi moderni, di far pagare le tasse anche al clero. I suoi amici vescovi strilleranno a pieni polmoni, ma le qualitas e non si può aver tutto nella vita.